快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫的音乐节目。在今天的歌舞剧场中，请您欣赏一组世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂演唱的歌剧咏叹调和拿波里歌曲，曲目有《重归苏联托》《女人善变》《今夜无人入睡》《罗马人的吉他》《我的太阳》《这位小姐》《那位太太》《我祖先的坟墓》《穿上戏装》《妈妈》《朝中宴》《香蝴蝶》《勿忘我》《多么快乐的一天》《要以我的快乐》《饮酒歌》《离开了他》《世间美丽的少女》，下面就请您连续欣赏。 Qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre una rapide leggiadro viso, in pianto e riso, e menzognero. La donna è mobile, qua di un malamento, muta da cento e di pensiere, e di pensiere, e di pensiere. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il core, ormai non sentasi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qual più malevento, muta d'accento. Di pensiere, e di pensiere, solitario il mio cuore disilluso d'amore vuol nell'ombra cantare una muta fontana

tutte le gioie in seno. Io della morte, io della fra poco la ricovero darà negletterello una pietosa lacrima non scenderà su quello a fine degli estinti ai misero manca il conforto a me tu pur dimentica quel marmo disprezzato mai non passar mio barbara del tuo consorte al lato di chi morio per te mai non passarmi tu lo dimentica rispetto al meno chi muore per te mai non passarmi tu lo dimentica rispetto al meno chi muore rispetto al belle ceneri di chi moria di chi moria per te. Recitar mentre preso dal delirio non so più quello che dico e quel che faccio eppure dopo sforzati ma sei tu forse un uomo. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e ridere vuole qua. Pagliaccio e ognun applaudirà

torna tutti gli anni sempre alla stessa data. Monti e mari e sa barca per tornare sola l'ore. Quando fuggeva lontano, speri in vano e non della sera passa la primavera, cinguettano le rondini nel volo, febbre di luce d'aria ed io son triste solo. Monti e mari tu non varchi per tornare. Yeah. che morire mi farai se tu non vieni. Più non tardare, che ti vuo baciar, baciare, ma viene di letta, dorita viene, che morire mi farai, farai morir, se tu non vieni. Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. La mia piccola rondine partì senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Non ti scordare di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Per te non ti scordare di me. Scordar di me, la vita mia legata a te, c'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordare. Avresti al tuo Più volte Oh, ma che la mia Violetta ha di per me la so dove dire poi vedi pompose feste dove gli omaggi a me dove le aschiamo di sua bellezza ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorre da per me qui presso a lei io arrivo e mi sento ed al soffio d'amor rigenerato scorre d'ore gaudi Non piangere, non piangere, 听众朋友，以上您欣赏到的是一组世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂演唱的歌剧咏叹调和拿波里歌曲，曲目有《重归苏联托》《女人善变》《今夜无人入睡》《罗马人的吉他》《我的太阳》《这位小姐》《那位太太》《我祖先的坟墓》《穿上戏装》《妈妈》《朝中宴》《香蝴蝶》《勿忘我》《多么快乐的一天》《要以我的快乐》《饮酒歌》《离开了他》世间美丽的少女，稍后欢迎您继续收听。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的音乐节目，在接下来的歌舞剧场时间中，为您播放世界著名男高音歌唱家多明戈演唱的一组歌剧咏叹调和意大利歌曲，曲目有《星光灿烂》《心中只有你》《古时在文森纳哈的宫廷中》《负心人》《往日的夜晚多么宁静》哥德曼斯特，妈妈，这酒好烈呀！我的身世和上帝，我的心灵已经疲惫。一个幸福的日子，民谣回响，饮酒歌，啊，咪咪你一去不返，和请让他相信。下面就请您连续欣赏。 生心肯，你依然来，你不得话，你撒心来，天的沙，拉拉雪龙山不看，你撒一沙的那个你。Der Stimme klang, ist es so wie Musik. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Oh, la cervelle. Qui diable peins-tu là, Klein Zack? Klein Zack, je parle d'elle. Qui? Non, la seule gâte. Ecco chi c'è nelle terre sua man sentia e questa mano stringermi alla sua man sentia. Mi tradia, allor ch'io muto statico. Questo è il fuoco sulle mani, la lo che te fea. infamma. Mamma, quel vino è generoso. E certo, oggi troppi bicchieri ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto. Buona prima voglio che mi benedite come quel giorno e partì soldato. E poi, mamma, sentite, se io non tornerò, sì, sì, io non tornerò, sì, voi dovrete fare. Oh, my God. Thank you. Thank you. Yeah. tremava la terra, stride ansio dell'orto. E un passo sfiorava l'arena, entrava in la fragrante. Mein ganzes Herz, wo wohn ich mich?